in primo piano. Cosa succederà con il federalismo fiscale e poi la forza simbolica dello scontro pubblico tra il Presidente del Consiglio e sua moglie Veronica Lario, le ore decisive per la Fiat negli Stati Uniti e il ruolo svolto in particolare dai sindacati americani e infine l'impatto sulla presidenza di Barack Obama del crollo del prodotto interno lordo statunitense, i dati di ieri. Sono questi, diciamo, i quattro filoni principali sui quotidiani di questa mattina. Iniziamo dal Sole 24 Ore. L'Italia federale parte dal fisco e l'apertura sul via libera definitivo del Senato di ieri, standing ovation per Bossi, scrive Stefano Folli sulla prima pagina del Sole 24 Ore questa mattina. Bene l'idea, ma ora tutti i conti. L'avvento del federalismo fiscale può essere un evento storico per il Paese, ma al momento bisogna essere sinceri, è soprattutto un'incognita. Per ora l'intuizione di Umberto Bossi resta un notevole esercizio progettuale in un'Italia in cui quasi nessuno coltiva una visione. La Lega ha avuto il coraggio di perseguire il suo sogno, fondato sull'esigenza reale di creare un moderno Stato delle autonomie, decentrato e fiscalmente ben organizzato. Ma questo è il punto d'arrivo di un percorso ancora lungo e accidentato. Sottovalutare tale aspetto sarebbe assai rischioso. Bene perciò il lavoro fin qui compiuto da Bossi e Calderoli, scrive Folli, ma attenzione a non cantare vittoria troppo presto. In primo luogo non sappiamo ancora quanto peserà sui conti pubblici attuare il riassetto fiscale. Né siamo al corrente di quali centri di spesa saranno duplicati in attesa dei futuri ipotetici risparmi. A questo proposito, ancora dal Sole 24 Ore, vi segnalo le prime analisi attorno al provvedimento approvato ieri. Diventerà l'IVA il vero forziere, dal gettito sui consumi, i fondi per le regioni e gli enti locali. Consultando la mappa della futura Italia federale c'è una voce che compare o comparirà a breve accanto a ogni livello di governo: la compartecipazione all'IVA. La ragione l'ha spiegata più volte lo stesso Roberto Calderoli, ministro. Essendo legata ai consumi e non al reddito, l'imposta produce introiti abbastanza uniformi lungo tutto lo stivale. Da qui la scelta di trasferirne una larga fetta in periferia. E a proposito del voto di ieri e la Padania, una gigantesca foto a tutta pagina del ministro Calderoli che stringe la mano a Umberto Bossi. Federalismo e legge, col punto esclamativo, giubila il quotidiano della Lega. Svolta storica in Senato. Bossi, l'ho sempre detto che la Lega ce l'ha duro. Successo dedicato a Miglio. Calderoli, la riforma durerà nel tempo. E poi all'interno 11 pagine dedicate al voto e al successo politico del movimento di Bossi ieri in Parlamento. La Stampa, e incominciamo ad affrontare la questione Fiat Chrysler, innanzitutto con una foto, quella di Barack Obama ieri in un liceo del Missouri, ma questo conta meno. La notizia è oggi, l'annuncio di Obama prima dell'intesa possibile, il ricorso al fallimento pilotato del colosso statunitense. Oggi per la Stampa è un giorno particolare, si insedia il nuovo direttore Mario Calabresi, 40 anni, parla di Torino. Torino, casa di questo giornale, può esserci d'esempio. Si era persa nella fine della città fabbrica, ma ha trovato la forza di ripensarsi e rinascere diversa, piena di fermenti e di energie nuove. E ovviamente oggi è anche un giorno così particolare per l'azienda di Torino, e cioè la Fiat. Dalla Stampa però c'è uno scrittore, Antonio Scurati, che scrive attorno alla peste suina, di cui oggi si parla ancora sui quotidiani, ma sempre meno. C'è qualcosa che non torna, scrive Scurati. Apparteniamo all'umanità più agiata, sana, protetta, longeva che abbia mai calcato la faccia della terra, eppure sembriamo la più impaurita, insicura, isterica e menagrama. Andiamo a vedere almeno uno stralcio di questo lungo articolo ancora. Noi ipertecnologici e iperinformati baby boomers, noi figli dell'ultimo letto in cui il prospero occidente seppe sposare crescita economica a crescita demografica, noi nati, cresciuti e pasciuti nel più lungo periodo di pace che la storia ricordi, noi che sappiamo tutto o che crediamo di sapere tutto, siamo poi pronti a prestare orecchio alla diceria del primo untore che passa, ad abbandonarci a suggestioni di massa, siamo la più facile preda di angosce dal fine del mondo imminenti. Psicosi Twitter, si intitola l'articolo, la fine del mondo in 140 caratteri, internet e microblogging moltiplicano il panico, così attorno alla peste suina. Per restare almeno un po' ancora a Torino, il nome della città lo ritroviamo anche sulla prima pagina di Liberazione. Detroit, provincia di Torino, dopo l'accordo di Marchionne col sindacato americano che controlla il 55% delle azioni e l'intesa con il Tesoro, l'ingresso della Fiat in Chrysler in posizione dominante pare ormai cosa fatta, ora è nelle mani dei piccoli creditori l'eventuale fallimento pilotato, c'è un riepilogo e poi la preoccupazione o comunque la domanda attorno agli stabilimenti italiani falcidiati dalla cassa integrazione, l'incertezza resta grande, scrive il quotidiano di rifondazione comunista. E veniamo alla questione, alla querella veline, così come la definisce Repubblica. Berlusconi cede via le veline, e questo il titolo principale. Vince Veronica, liste cambiate, e quindi si dà una lettura anche politica dello scontro avvenuto attorno alle liste, ma dello scontro tra Berlusconi e sua moglie Veronica. Scrive Natalia Aspesi su Repubblica questa mattina in un articolo intitolato La prevalenza del maschio. Di nuovo, il valore delle donne si identifica nella grazia fisica e nella giovinezza, cioè in un breve periodo della vita, e ci si può quindi chiedere se la carriera politica delle signore Carfagna e delle altre terminerà con le loro prime rughe o i chili in più. Se da noi la televisione è un veicolo indispensabile a ogni tipo di carriera, cominciando da quella politica, che negli altri paesi si prepara in scuole di massimo prestigio e difficoltà, ci si chiede come mai non sono stati cooptati per le prossime elezioni i pur amatissimi maschi dai toraci lucenti del Grande Fratello o della fattoria o della pubblicità. È semplice fino a quando non avremo un premier gay, perché la gestione politica del potere è tornata solidamente in mano agli uomini, che, come ci mostra ogni giorno il telegiornale, sono spesso inguardabili per bruttezza, antipatia, ridicolaggine, volgarità, e non li vorrebbe proprio nessuno, tranne appunto la politica. Già, le donne di età, esperienza, forza, pazienza, che in numero esiguo si erano guadagnate un posto nei parlamenti e nei governi passati, dovevano subire i lazzi per i loro tailleur sbagliati o la loro scarsa avvenenza. C'erano, ma non le volevano. Oggi non si vorrebbero neppure le giovani e belle, ma pazienza, se tirano su il morale del capo, non si può dire di no, purché da vere donne non pretendano di capire, sorridano e dicano sempre di sì. Così Natalia Aspesi, a margine, non solo, della vicenda Berlusconi-Lario. Da Repubblica vi segnalo, anche perché solo Repubblica mette questa notizia in prima pagina, riguarda racket. No all'obbligo di denuncia, è scomparsa dalla legge la norma che imponeva alle vittime di segnalare l'estorsione mafiosa, e c'è anche uno scontro politico all'interno del centrodestra sul tema. Maroni da una parte, Alfano dall'altra, Lega e PDL divisi su appalti e mafia. Dopo la rottura sulle ronde e sui medici spia, la manovra del governo sulla sicurezza segna lo scontro sull'obbligo per l'imprenditore titolare di appalti pubblici di denunciare un'estorsione, pena la perdita della commessa e l'interdizione dalle gare per 3 anni. Quest'obbligo è stato cancellato dalla normativa e il ministro dell'Interno Maroni si è molto arrabbiato. Anche il giornale apre con veline e veleni, scrive, ecco i nomi dei candidati. Anche sul giornale a scrivere principalmente, il giornale dedica 9 pagine all'argomento, a scrivere in prima pagina è una donna, così come la Aspesi su Repubblica, in questo caso è Maria Giovanna Maglie. Al dibattito fasullo sul velinismo mancava solo lei, la first lady in sonno, deliziosa e riservata signora che non ha scelto mai le luci della pubblica ribalta e l'adeguamento al ruolo che ormai anche in Italia tutte le consorti onorano, ma che da tempo conosciamo a mezzo stampa ed agenzia per pungenti, salaci dichiarazioni che obiettivamente danneggiano, o almeno si cimentano a farlo, non suo marito, sarebbero fatti squisitamente loro, ma il premier e il governo italiano. Dalla lettura finalmente ufficiale e fuori dai malevoli gossip delle candidature femminili alle elezioni europee, apprendiamolo che molto fu fumo e chiacchiere. Così Maria Giovanna Maglie sul giornale, e anche l'Unità apre con lo stesso tema, bulli e pupe, quelli che hanno i conti aperti con la giustizia insieme con ballerine, attrici e veline. Continua la lite con Veronica Lario, eccetera, eccetera. C'è, tra le altre cose, un'intervista al corrispondente dall'Italia del País, che ovviamente questa mattina ha scritto sul suo giornale. Il dramma, dice, è che alla fine vince sempre Berlusconi, tutta Europa parla delle sue candidate. È una faccenda più complessa di quanto appaia, è una manipolazione totale delle donne e del rinnovo della classe dirigente creata d'arte da Berlusconi, che dice «voglio gente colta e preparata, ma anche bella», lancia la notizia delle veline al corso di politica e tutti i giornali abboccano. Poi, quando scoppia la bufera, rettifica. In Spagna non succederebbe mai, né in qualsiasi altro paese europeo. Berlusconi è ben oltre politically correct, non gliene frega niente. Il fatto preoccupante, però, è che ha una connessione profonda con gli italiani. Così il corrispondente del País dall'Italia, che si chiama Miguel Mora, questa mattina sull'Unità. Dall'Unità vi segnalo, giusto per cambiare argomento, un ritratto di Guido Bertolaso, Super Guido, il dittatore della ricostruzione. Il decreto gli affida poteri molto vasti nella gestione del dopo terremoto. Abbiamo sbagliato, scrive Claudia Fusani sull'Unità, adesso ne abbiamo la prova, l'uomo più potente d'Italia non è Silvio Berlusconi ma Guido Bertolaso, 59 anni, medico infettivologo, laurea ad honorem in ingegneria gestionale e dal 2001 numero uno della protezione civile, la macchina del pronto intervento sulle emergenze e la cabina di regia di tutti i grandi eventi, dai funerali di Wojtyla ai mondiali di nuoto, dall'emergenza rifiuti al restauro del Duomo di Noto, per non parlare di alluvioni, frane, incendi e terremoti. Un lungo ritratto sulla irresistibile ascesa di Guido Bertolaso. Un'ultima segnalazione, poi riprenderemo tra poco sulla questione Berlusconi-Lario, un'intera pagina grande del foglio con tutte le firme di questo giornale, che si intitola «Mettiamoci il dito, la perfetta tempesta coniugale ridiventa una questione di interesse nazionale. Ma ha ragione lui o la signora? È ciarpame senza pudore, un regno al suo apice o la metà di niente?» E poi molte opinioni per tutti coloro che sono interessati al tema. E ora linea alla viabilità. In primo piano. Riprendiamo con la lettura dei giornali di questa mattina, eravamo al foglio. Dal foglio vi segnalo in prima pagina un'analisi, o comunque si mettono in fila una serie di operazioni di polizia dell'ultimo periodo. Il titolo è «Il mattinale di Sgomorra», senza troppa enfasi. Ieri è stato ciuffato il boss ad interim dei casalesi, retate, arresti di massa, pentimenti, sequestri di beni per centinaia di milioni di euro. Finalmente ora è la camorra a prenderle dallo Stato. È una storia inedita, scrive il foglio. In questa fase la camorra sta subendo, così dalla prima pagina. E per chiudere questa volta definitivamente con la questione veline, la prima pagina di Libero, vizi privati e pubblici lamenti, Veronica velina ingrata, per la seconda volta Lady Berlusconi denuncia sui giornali le scelte del marito, stavolta il pretesto sono le soubrette, ma si dimentica che pure lei, tre puntini di sospensione, i puntini di sospensione si spiegano un attimo sotto, con tre foto dello spettacolo teatrale del magnifico Cornuto, messo in scena al Manzoni di Milano nel maggio del 1980, tra gli spettatori, ricorda Libero, c'era un giovane Silvio Berlusconi, è quello che viene definito lo striptease di Veronica Lario, che resta nella terza foto pubblicata da Libero questa mattina a seno nudo. Passiamo al Corriere della Sera, il federalismo fiscale è legge, e poi, come in diversi altri giornali oggi, foto abbastanza ispirate di Barack Obama, che ieri ha festeggiato i primi 100 giorni di presidenza, e sono uscite anche una serie di fotografie a cura del suo staff, che lo ritraggono in varie pose, varie situazioni. Dal Corriere della Sera vi segnalo in prima pagina Bergamo e la piscina per le islamiche, un'ora alla settimana aperta solo alle musulmane tra le proteste. Andiamo a vedere di che cosa si tratta, ci fu un caso analogo qualche mese fa a Berlino. L'ora di nuoto riservata alle islamiche, accesso vietato agli uomini, la Lega protesta, ostacola l'integrazione, scrive Paolo Di Stefano. A volte succede che un semplice gesto sia capace di portare alla luce in tutta la sua flagranza questioni cruciali che in tante discussioni teoriche non cessano di apparire farraginose e astratte. È il caso della decisione, illuminata, buonista, regressiva, ipocrita, punto di domanda, presa dai genitori della dai gestori della piscina Siloe, di proprietà della diocesi di Bergamo, i quali hanno stabilito che per un'ora, ogni giovedì mattina, gli spazi delle loro strutture simil balneari verranno riservati alle donne islamiche per permettere loro di stare al riparo dagli occhi maschili, come detta il Corano. Decisione che, è facile intuirlo, contiene in sé ogni sorta di ambivalenza, un segno di democrazia e tolleranza, o, viceversa, il primo sintomo di complicità verso la ghettizzazione? Punto di domanda. E poi ci sono una serie di foto di giovani islamiche che fanno il bagno in piscina, ovviamente coperte dalla testa ai piedi. Dal Corriere della Sera vi segnalo anche un articolo attorno al ruolo che hanno i sindacati, che hanno avuto, che stanno avendo i sindacati della Chrysler sull'accordo con la Fiat. E le tute blu statunitensi ora si affidano all'economista italiana di New York, figlia di migranti di Lucca, cura gli interessi del fondo pensioni dell'UAV. Fratelli e sorelle, la lettera con la quale l'UAV, il sindacato dell'auto, comunica agli iscritti i termini assai onerosi per i lavoratori dell'accordo per la ristrutturazione della Chrysler, ricorre all'antica retorica della solidarietà operaia, e cioè quel fratelli e sorelle dell'inizio. Ma la descrizione degli impegni è essenziale, nitida. L'assenza di alternative praticabili viene presentata con livido realismo, fino alle conclusioni. Il VEBA, il fondo istituito 2 anni fa per fornire agli operai dell'auto l'assistenza sanitaria non più garantita dai datori di lavoro di Detroit, non potrà più essere finanziato cash dalla Chrysler, come previsto dagli accordi iniziali. E poi via raccontando sia dell'atteggiamento e del ruolo dei sindacati della Chrysler, sia di questa economista Teresa Ghilarducci, che curerà gli interessi del fondo pensioni dei lavoratori dell'azienda americana. Un'altra foto di Barack Obama, questa volta piuttosto pensosa e preoccupata, con alle spalle la bandiera americana e il manifesto appeso al PIL. Il prodotto interno lordo degli Stati Uniti è calato del 6,1%, questa è la notizia di ieri, scrive in un editoriale il manifesto in prima pagina. Sull'economia si gioca il futuro di Obama, che ha ricevuto un'eredità pesantissima. La sua linea è netta, tutti gli sforzi e a qualsiasi costo vanno fatti per mantenere i livelli di occupazione, e tra i costi c'è anche la riduzione dei salari e la rinuncia per 6 anni a ogni agitazione sindacale. E i sindacati statunitensi non si lamentano, accettano le condizioni e le fanno accettare agli iscritti. Rimangono gli industriali, in questa fase gli investimenti stanno crollando, ma l'obiettivo di Obama di puntare alle energie alternative sta dando frutti. Basta leggere la stampa statunitense tutti i giorni. Ogni giorno annuncia investimenti giganteschi nei deserti e sull'eolico, che cominceranno a produrre reddito e occupazione solo tra 6 mesi. Ma la nottata passerà presto se Obama seguiterà ad avere consensi. Ieri notte, secondo i sondaggi, c'è riuscito. Così il manifesto a proposito del PIL, il riferimento è poi a come ha affrontato la questione Obama nella conferenza stampa. Un'altra segnalazione in chiusura per il federalismo, diciamo così, viene dal Messaggero, che si occupa di un aspetto particolare di quanto è stato deciso ieri. Riforme sì a Roma Capitale, in arrivo più fondi e nuovi poteri per il Campidoglio, la soddisfazione di Alemanno, un sogno realizzato, si apre una nuova epoca. Così per quanto riguarda il federalismo. Chiudiamo con Avvenire, che credo sia l'unico, sì, è l'unico a questo punto, che apre con la nuova influenza. Si estende il fronte della nuova influenza, dice Avvenire. E poi, vista l'attenzione che ha questo giornale spesso per le notizie dall'estero, vi segnalo una terza pagina molto ampia sull'Asia. La crisi adesso è triplice: problemi finanziari, alimentari e climatici per il continente più popoloso. Per questa mattina abbiamo finito, grazie a tutti per l'ascolto e ci risentiamo domani.